voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. This one day we was out walking like always, and then, just like that, somebody turned off the rain and the sun come out. Io e Blas ci scambiamo un'occhiata, timorosi di indagare sul contenuto del borsone, che stava chiuso a fatica, con la cerniera sul punto di esplodere come la bottega dei pantaloni di un attore porno. E Claudio non arrivava. Era logico pensare che fossimo tutti ansiosi di iniziare il nostro viaggio. L'avevamo pianificato così bene, noi che odiavamo tanto i progetti, non era proprio il caso di trasformarlo in un appuntamento qualunque cui ci si permette di arrivare tardi. Eppure, questa era la grande virtù di Claudio, non dare mai importanza a niente, almeno in apparenza, così si evita di soffrire. Era stato Claudio il cervello della trovata ed era stato sempre lui a scovare il furgone su seconda mano, il Nissan di un rappresentante di formaggi con qualche giro del mondo sul contachilometri, ma che, stando al fiuto di Claudio per la meccanica, ci avrebbe seppelliti tutti quanti. Per provarlo, lo spinse a 170 sulla M30. Il proprietario mi si aggrappò alle ginocchia, confessandomi coi sudori freddi che la sua idea era di venderlo da vivo. Ritornando a casa con un felice acquisto, io e Claudio giocavamo a trovare un titolo per la nostra avventura. Il lungo viaggio verso la fica, viaggio al centro delle cosce, il giro del culo in 80 giorni, 20.000 leghe subnormali. L'idea consisteva nel non decidere un itinerario, c'era sì una data di partenza, ma non di ritorno. Nelle nostre fantasie il viaggio sarebbe terminato quando noi quattro, sconfitti dalla fatica, ci saremmo arresi al grido di «Adesso basta, non possiamo divertirci più di così». Sapevamo che era un miraggio, avevamo a disposizione soltanto gli ultimi 15 giorni di agosto per ridurci in quello stato, ma 15 giorni di fila e soprattutto le relative 15 notti ci sembravano un'eternità. Gli unici limiti erano quelli imposti dal pianeta e dalla nostra resistenza. Questo era ancora l'incipit di Quattro Amici di David Trueba. work your dead job, rent your home, sweet homeless. It almost killed me and I didn't even notice it. I'm in no rush, I'm in no rush. Oh, why, feel a change, I'm becoming no love again. I'm in command of my own fate. I can depend on destiny if it's safe. Come alive, come alive with me. Oh, dead life away, rise from your grave. Dead life away, a dead già noti. Agli ascoltatori di Eclettica hanno aperto questa seconda parte del volume numero 4. Prima Windmill da Londra e poi Dot Day da Halifax, Nova Scozia, in Canada. Prima di lasciarvi con la nuova prova dei Fratelli White, vi voglio ricordare delle due possibilità internet a vostra disposizione. L'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com per comunicare direttamente, ma soprattutto per iscriversi alla lista nera con cui ricevere le playlist settimana per settimana, e invece il sito myspace.com/eclettica, su cui trovate tutto il dettaglio relativo a questa trasmissione, comprensivo del podcasting. E ora, come vi dicevo, il nuovo dei Fratelli White, ovvero sia di Electric Soft Parade. Si tratta di If That's the Case, Then I Don't Know. Is it alright for me to be unsure? And if it's I ran and ran, just like Jenny told me to. I ran so far and so fast, pretty soon I was all by myself, which was a bad thing. Quando mostrammo a Raoul e a Blas il furgone appena acquistato, entrambi reagirono secondo le previsioni. Blas si strinse nelle spalle, abituato ad accettare qualunque cosa non richiedesse da lui nessuna decisione. Il suo pacifico conformismo era la causa del fatto che avesse superato i 120 kg quasi senza sforzo. L'improvvisa perdita dei capelli non era dovuta in alcun modo allo stress. Bravo incassatore, come un punching ball, il suo modo personale di affrontare i problemi consisteva proprio nel non affrontarli. Raoul, invece, freddo ed obiettivo, si affacciò all'interno del furgone e si tappò il naso con due dita. «Puzza di formaggio», osservò. «Ma certo che puzza di formaggio, l'abbiamo comperato da un formaggiaio», Quindi vorreste passare l'estate a puzzare di formaggio? È già meglio della tua puzza abituale, lo rimbrottò Claudio. Se ci dimentichiamo dove l'abbiamo parcheggiato, possiamo sempre trovarlo seguendo l'odore, intervenni io. La verità è che puzza di merda, interruppe Blas dopo aver annusato il vano posteriore. Bisognerà disinfettarlo. Il formaggio mi fa vomitare, insisté Raoul. Lo sapete che sono allergico ai latticini. E allora lavalo tu, che sei l'unico a non aver cacciato un soldo. Claudio si incazzava perché Raoul non saliva di corsa sul treno dell'avventura come lui, ma trovava sempre il lato negativo delle cose. Puzza di formaggio, tipico. Se fosse stato il primo astronauta a mettere il piede sulla Luna, Raoul si sarebbe certamente limitato a dire «Qui non c'è un cazzo di albero». Questo era ancora l'incipit di Quattro amici di David Trueba. È un interessante nuovo progetto italiano, il nome è Bordeaux, però per vedere come esattamente scritto, come sempre vi rimando alle playlist di Eclettica. Radio Motel è il titolo del disco d'esordio che esce per Envelope Records con distribuzione Goodfellas, una band che nasce in una cittadina della Puglia nell'estate del 2002 per volere del giovane cantante e chitarrista Angelo Di Bello, ma poi si sono trasferiti a Milano e quindi possiamo considerarli quasi milanesi d'adozione. Sono un trio e noi ce li siamo ascoltati con il pezzo dal titolo Inganni. You make the record at night, 'cause everyone knows the rock and roll is the language of night. But this got made in the day, it was bright. The drums are fully shaky, but the bass is more tight. And the song is the single, and the single sucks. It never sounded good. It always sounded bad. What is the song? The pop song, is it a conduit? To give out a feeling in a compact form, a short form, the shorter.